100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Nella vicenda Volkswagen o Dieselgate, come si chiama ormai da quando è scoppiata, è arrivata una buona notizia. Notizia buona non certo per la casa automobilistica tedesca, che invece proprio ieri ha confermato che i 6 miliardi e mezzo di euro accantonati già per lo scandalo scoppiato negli Stati Uniti e poi allargatosi a tutto il resto del mondo, i 6 miliardi e mezzo, dicevamo, non saranno sufficienti. I costi delle cause legali e dei ricorsi saranno infatti molto più alti. E non è buona la notizia, sempre diffusa ieri dalla Volkswagen, che degli 11 milioni di veicoli coinvolti nello scandalo, ben 8 milioni siano circolanti in Europa, con il rischio che il fronte europeo della vicenda sia tutt'altro che chiuso. No, la buona notizia riguarda l'Italia e i produttori di componentistica auto italiani. L'industria italiana dell'auto, infatti, non significa solo il gruppo Fiat Chrysler, ma anche e soprattutto oltre 200 produttori di componentistica che esportano ogni anno, solo in Germania, per le varie case automobilistiche tedesche, 4 miliardi di euro. La buona notizia, dicevamo, l'ha data ieri il presidente dell'ANFIA, che è l'associazione che li riunisce, Roberto Vavassori, il quale ha chiarito che per ora non solo non c'è stato alcun danno dalla vicenda Volkswagen negli ordinativi ricevuti dalle imprese italiane, ma che anzi a fine settembre si è già registrato un più 11% nella raccolta degli ordini. Buona notizia per il settore automotive italiano, sarebbe infatti una beffa se le aziende italiane dovessero pagare per dei conti, scusate, dei motori truccati dai tedeschi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Sono passate 48 ore dalla firma dell'accordo commerciale Asia-Pacifico, Stati Uniti, e già le ripercussioni in Europa sono cominciate. A Bruxelles, nelle grandi stanze della diplomazia europea, c'è infatti un grande affare per cercare di trovare un accordo e una piattaforma da presentare al tavolo negoziale per gli Stati Uniti e firmare così l'altra gamba della nuova ordine mondiale commerciale, un accordo fra Stati Uniti e Unione Europea sugli accordi di libero scambio. Che cosa significa intanto per l'Europa il fatto che l'America e 10 paesi asiatici, esclusa la Cina, abbiano firmato quell'accordo? Significa in sostanza che tutte le imprese asiatiche e le imprese americane potranno ora esportare reciprocamente ai rispettivi paesi senza tasse aggiuntive o barriere doganali. Ma non è soltanto un fatto di tasse, ci sono soprattutto le regole, gli standard, l'ambiente, i diritti del lavoro, le retribuzioni e così via. E in questo senso il fatto che l'Europa sia arrivata in ritardo rispetto all'Asia a firmare con gli Stati Uniti significa che probabilmente sarà proprio l'Europa a doversi adeguare agli standard fissati in quest'altro accordo. Un accordo che sostanzialmente dà carta bianca, e così sembra, alle imprese asiatiche non soltanto per esportare più automobili o farmaci negli Stati Uniti, ma soprattutto cambiare un po' le regole del gioco anche sul mercato dei cambi. È un fatto che l'incapacità di trovare un accordo sulle valute stia spingendo di fatto gli accordi commerciali, un'altra forma per regolare il commercio e gli scambi. Per l'Europa la partita è alta, soprattutto alla luce del disastro mediatico e finanziario della Volkswagen. L'auto infatti è uno dei cardini degli accordi commerciali. Finché la situazione Volkswagen non arriverà a compimento, sarà difficile per l'Europa alzare la voce con gli Stati Uniti su quali standard debbono regolare le automobili del futuro e soprattutto gli scambi nel settore dell'automobile. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.